Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. A Bruxelles, come sentivate, è ancora in corso il vertice dei ministri degli interni con ancora una volta al centro la questione migranti. Forti le tensioni con Vienna, ma anche con Atene. Non saremo noi a diventare il Libano d'Europa, dice la Grecia. E allora, cominciamo da qui. Trovare un approccio condiviso sul rafforzamento dei controlli e sulle politiche migratorie, questo è l'obiettivo del vertice, ma la via è stretta e difficile, soprattutto dopo la sfida lanciata dall'Austria e dagli altri paesi balcanici che intensificano la loro offensiva per frenare l'afflusso di migranti, introducendo quote e inasprendo le condizioni di passaggio, di fatto creando un tappo in Grecia dove rischiano di rimanere bloccati migliaia di migranti, tutti i paesi che ieri hanno partecipato al cosiddetto controvertice di Vienna, riunione dalla quale sono state platealmente escluse le istituzioni europee e la Grecia, quest'ultima particolarmente irritata. Non accetteremo di vedere il nostro paese trasformato in un magazzino di anime, anche se questo comporta un aumento di fondi, avverte oggi il ministro per l'immigrazione Mosalas al suo arrivo. Ma il commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos non si perde d'animo e lancia un nuovo accorato appello all'unità e alla responsabilità. Critical moment, critical meeting. We have made common decisions. It is the moment to deliver. Lonely initiatives do not lead anywhere. È un momento critico, un incontro critico. Dobbiamo stringere, dice il commissario, avvertendo che iniziative unilaterali non portano da nessuna parte. Di umanità e responsabilità parla anche il ministro dell'interno francese Cazeneuve, che invita ad applicare rigorosamente le decisioni europee. Così anche il ministro dell'interno italiano Alfano. Noi speriamo che la questione con Vienna si superi, anche perché coi muri si generano solo illusioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Tensione tra Grecia e Vienna, però sempre più forte. Poco fa la decisione, Atene ha richiamato il proprio ambasciatore in Austria. Motivo proprio le tensioni sui migranti. Intanto anche le altre questioni aperte sul fronte europeo, a cominciare dall'attesa decisione sulle norme che avrebbero spianato la strada all'import nell'Unione Europea di olio tunisino. Secondo la proposta della Commissione Europea, dopo lunghe trattative, capofila l'Italia, da sempre contraria al Parlamento Europeo, questa mattina ha approvato due emendamenti che di fatto riaprono la questione. Riguardano l'obbligo di origine del prodotto importato e il divieto di proroga del provvedimento. Dunque, decisione finale per ora rinviata. E concessioni a rischio invece per le spiagge italiane. L'Italia va verso la bocciatura della legge con cui ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime lacustri fino alla fine del 2020, contraria al diritto europeo, la conclusione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia. La vicenda riguarda in particolare gestori sardi e del Lago di Garda. Le conclusioni dell'avvocato non sono vincolanti, ma in genere sono riprese nella sentenza che sarà emessa dalla Corte. Due anni dopo il via libera al biogas italiano, il consorzio italiano presenta a Roma il manifesto di sostegno alla filiera del biometano. Il suo presidente, Piero Gattoni, chiede all'Europa di tracciare un quadro chiaro per favorire, dice, nel piano energetico europeo anche questa fonte rinnovabile. Il biometano è simile al gas naturale, solo che ha un'origine biologica, in quanto viene prodotto utilizzando sottoprodotti agroindustriali, effluenti zootecnici e colture in rotazione. Oggi abbiamo una produzione di circa 2,5 miliardi di normalmetri cubi di biometano che vengono tutti indirizzati per la produzione di energia elettrica rinnovabile e calore attraverso sistemi di cogenerazione. E il potenziale che noi individuiamo in un position paper sottoscritto insieme a SNAM e Confagricoltura per il nostro paese è di circa 8 miliardi di normalmetri cubi al 2030, che equivarrebbe all'attuale produzione di gas naturale. Qual è la prospettiva europea di questo vostro settore? La prospettiva europea è importante perché la comunità europea ha un ruolo di indirizzo determinante. Noi riteniamo che dopo l'accordo di Parigi sempre di più l'Europa debba diventare leader per un percorso di decarbonizzazione dell'economia. Noi pensiamo che l'Italia abbia tutte le carte in regola per percorrere un modello di integrazione la rete del gas naturale con le fonti energetiche rinnovabili e riteniamo quindi che il biogas e il biometano siano due componenti strategiche per permettere questa integrazione. Dobbiamo essere forti, dobbiamo chiedere al governo di essere forte per portare a Bruxelles quella che è un'esigenza strategica del nostro paese e del nostro settore, del nostro sistema agroindustriale. Per il momento ci fermiamo qui, ma l'Europa come sempre vi aspetta a effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.